dell'onde pur calciare queste e il vento scrive il destino e la sorte si arrendo questo quello un'alma forte dunque dei pini a te i naufraghi e rossi l'italiano l'inico andrà fastoso confida in questa destra forse un giorno vedrà chi ti fa guerra nel sangue immerso i suoi naufraghi in terra quanto hai invito costui col suo valore risveglia nell'ardir quinci non lunge mira a fumare un pastorale albergo con affreccio il passo darò solo in gospigo per sentire con forza il cor già rosso amico qual riposo sperar potrà quest'alma se il mio bene il mio amore il mio tesoro prigioniera ed un barbaro tiranno